Vogliamo farvi un omaggio, due chicche, uno con il sax e l'altro con la fisarmonica. Sono pezzi molto intensi d'ascolto perché fanno veramente accapponare la pelle, come diceva quello là. Dedicatissimo alla nostra dolcissima Susan e al nostro caro Vito. Ecco, un bel applauso per i nostri sposi che se lo meritano tutto. Signori, dal sassofono del nostro Mimmo, il concerto d'Aranchezza. Dedicatissimo a tutti, agli sposi. Domenico a sax, bravissimo, con questo bellissimo brano, Domenico. Ormoni d'acciaio, Domenico, dai. grazie, veramente, grazie, eccezionale, veramente. Grazie.